Custa sa locanda, custa zichinica terra sarda. Aio, aio, aio. Aio, nevo, noci, punti problema za gusta rap e da podera za mera za venzanta, scete macchina za manna za femmina za bella za bamba perda za suveru bucciacca za coltella anta scimmietta za americana za bona za scete negazzara za magando para za gusta rap a castianate e non a palaza non mi friga za fini de origa za si importanti che poi mi gumbira za dusci se chi no buffo no besinti rima za centu vocentu de conca crapita za centu gonca za centu berrita za lassa sadra se musicista za rappresenta sa gente de spida za io in noi sa druta si se gara fitta za pitica za cindevo mamma se filla se gente tranquilla e chi ni massi in villara ara shiri canno zio sanguida za sa vita tutto gorilla za intervista za con quattro droia za con finta za buffendi champagne a bottiglia za bikini festino se villa za e no su scolle tendi bo tua birra za se patiu macando gazza ripa za Sei proprio in gamba, sei. Cioccolati in the house, de canda pugu menzao. Appu sempre in house, su che fate fate moi passao. Ammiri a menciao, all'irgo incazzao. Moi sempre con sagrica de bichao. In noi su brodo noi spacciao. Aio zi niggas, rappa in sagonca. Sa gente pronta, la sassi impronta. Cioccolati fai sagonta. De uno a duzu, de duzu a tresi. De tresi a quattro, de quattro a cinque patto. Una trumatoni, una tra domo in costruzioni. Un'occasione, bonora e sa tradizioni. Po' sboriano bottiglioni, una canzoni. Non si buoni in discussione. Un montone de merda bio in televisioni. Ah, presentazioni de ladroni. Situazioni de gazzu e sandazzu e de galloni. Leppa frulla su dorcioni. Beppe ghetta su campioni. Moce su maestri a cabara sa prestazione. Io Ava bifisa, itta bifisa. Lice si sardini in ogni rima. Ma non si comprende un nudan. Problema sa laga. Gira e rigira. C'era sa strada sa nuova senza. Oh boh, scira. Tutta finzione la vita. È la vita su chi di una da lui e te. Troppo frida, non ti ispira. Scegli una guida. Accetta questa sfida. Viga, Samir e poi tira e partita. Vira, senza una lira. Non c'ho la roba più figa. Sa macchina è da bullida, bullida. Non c'ho le tipe in piscina. Che sfiga. Ma il nostro video si gira. Solo se si gira da noi cantini. Collina. C'è chi ci stima, lo stile si affina. Fetti cosa genuina, a roba de cartolina. Maestro, ma chi cucina? Chiedi alla cricca zinnigas per prima. Vago problema, se linea, nisci un problema de rima. If I was your problem, no.